Roberto Monelli, come nasce l'idea di un festival delle città impresa? Il progetto nasce in realtà da un incontro di idee che hanno voluto dare una rappresentazione diversa del Nord-Est rispetto a molti stereotipi e soprattutto ragionare e trovare un momento di incontro sul rapporto tra le città del Nord-Est e le proprie imprese. Un rapporto in passato sempre sofferto, spesso molto criticato. Ricordiamo tutti gli anni dello sviluppo frenetico del Nord-Est con la crescita dei capannoni, i garage trasformati in azienda che hanno puntellato il territorio triveneto di aziende piccole e grandi, di capannoni e padiglioni tali da non consentire molto spesso il riconoscimento di una città rispetto all'altra. Si passa da un cartello stradale all'altro senza soluzione di continuità molto spesso. Di che anni parliamo? Parliamo dell'inizio degli anni 2000 essenzialmente, cioè gli anni del grande boom economico del Nord-Est, il Nord-Est delle microimprese che riuscivano a sbarcare su mercati europei e a battere le medie e grandi imprese. Un periodo oggi cessato, anche se uno nuovo ne sta nascendo, ma un periodo che aveva creato anche forti disagi al Nord-Est e soprattutto una scarsa identificazione tra le città e il proprio sistema imprenditoriale. Erano due realtà parallele? Nel senso che lo sviluppo dei capannoni non sempre si accompagnava a uno sviluppo della qualità della vita nelle città. Con il trascorrere degli anni e anche con la maturazione che è in atto del sistema imprenditoriale del Nord-Est, ci si è resi conto che la città e il sistema delle imprese non sono altro reciprocamente, ma sono la medesima espressione territoriale in forme diverse. Banalmente sono parte della vita del quotidiano di tutte le persone che vivono e lavorano a Nord-Est. Da qui si è voluto creare questa riflessione che è, come dire, ricucire la ricucitura di questo rapporto tra le imprese e le città, consapevoli come siamo tutti che nell'economia moderna il ruolo delle città è un ruolo fondamentale. Quali sono gli elementi che servono per ricucire questo rapporto fra la città e le imprese? Noi vogliamo ragionare essenzialmente su due elementi: la qualità dello sviluppo e nuove idee per lo sviluppo portate da energie fresche, cioè giovani talenti da tutto il mondo. Per quanto riguarda la qualità dello sviluppo, come dicevo prima, ci si è resi conto che l'azienda non è tutto e i numeri non sono tutto. Quando usciamo dalle aziende vogliamo camminare in piazze gradevoli, vogliamo che le nostre famiglie vivano in un ambiente accogliente, e le scelte che fanno non solo le persone che lavorano ma anche le aziende laddove si insediano sono molto mirate alla possibilità di vivere una qualità della vita culturale, sociale, sportiva, ricreativa e non solo economica, che sia tale quindi da completare gli elementi dello sviluppo. Un'azienda che fa buoni numeri, che ha successo, ma che vive in un ambiente degradato non è un'azienda attrattiva, e il territorio in cui opera non è un territorio attrattivo. Perché si dice che le città del Nord-Est sono diventate impresa? Sono diventate perché lo sviluppo del territorio ha fatto sì che non vi sia, come dicevo prima, quasi più riconoscibilità dei singoli territori, delle città e delle province l'uno rispetto all'altro. Attraversando in macchina il Nord-Est e in particolare il triangolo del Veneto fra Treviso, Vicenza e Padova, è tutto un succedersi di aziende, di capannoni, di agglomerati talvolta industriali e talvolta urbani. Lo sviluppo del territorio ha fatto sì che, come dire, l'insediamento delle imprese determinasse anche le scelte urbanistiche.